dipende dalle ore che fai. E così, i pezzi sono quelli lì, non c'è Orbia o... i pezzi sono tutti quelli, sono quelli pagati dalla, dal coso della, dell'Ips, sono quelli lì. Questo secondo me è un lavoro, il lavoro notturno va pagato un po' di più, almeno 8 euro, 9 euro l'ora va pagato il lavoro notturno, secondo mio parere. Però devo lavorare così, cosa, perché se io vado a fare altri lavori che è pagato molto di più il notturno, secondo che lavoro fai. Allora, il notturno sono pagato, devono pagarlo dalle 80 alle 100 euro, non più basso di 80 euro, dalle 80 alle 100 euro il notturno. Infatti, io quando vado a fare una serata me la pagano intorno a quella cifra. Vedi, è giusto, un pezzo è giusto. Ma no, che cazzo ti danno 40 euro sia di giorno e sia notturno. Una volta, due volte, tre volte, poi alla fine dopo li perdono tutti le guardie. Punto. Dopodiché, siccome non sono in Perugia di persona, fanno entrare dentro a cane e porci pure, perché sono con l'acqua alla gola loro pure. Ma per carità, Ma non hai visto, assumiamo qui, là, guardie giurate, stanno cercando personale, cazzo non vanno nessuno, perché? Perché danno una miseria, tanto vale si casano a casa. Però anche quello è manuale, c'è una piccola assicurazione, c'è la pensione, c'è il pro e il contro, c'è. Però non è giusto pagare così poco, mi dispiace, ma bisogna che qualcuno si svegli, che qualcuno si svegli e chissà cosa la voce, a finire una voce a battute. Sì, già sono anni che devono fare, aumentare per queste guardie qua, sia porterate, sia guardie armate, già è un giorno che lo devono aumentare, e se qui così, ma appunto. Vai Antonio. Già, per lavoro di qui, via. Non ci sono i fubacchioni, ce lo sai. I giorni di festa specialmente mi hanno fatto il capolano, te lo fanno passare in servizio, perché c'era il collega tuo magari che è molto amico del principale, dice guarda che oggi mi sento male, no? Non posso venire, hai capito? E si fa l'altra a casa, è tutto che stai lavorando lì in casa, come un imbecille in pratica. Sai quante volte gli avevano fatto questo gioco a coso, a Elio, quando faceva vigilanza quello che c'era via Napoli, adesso non mi ricordo il nome, quella vigilanza che c'era lì via Napoli, nei Savissimi, sì. Gli facevano fare dalla mattina fino alla notte, addirittura doveva sostituire qualcuno, quando arrivavo a casa come toccava il letto, non sentiva neanche il molto picco passargli a fianco. Sì, ma è così perché cazzo ti scupi, alla fine scupi, non ce la fai più, quel lavoro lì, chi resiste, sì, c'è gente che resiste, ma c'è gente che, per dire ai ragazzi di oggi, cosa resiste? Fanno un mese, se li fanno fare almeno 15 ore al giorno, cazzo scappano quelli lì. Sì, perché i ragazzi di oggi tendono anche ad andarsene fuori, quindi no, che non c'è futuro, dammi dire di yo-yo, non hanno problemi e cosa. E comunque a me a Capodanno me l'hanno pagata doppia, la notte del 31, io l'ho presa doppia. Via da te. Ah, vabbè, io adesso sto cercando sempre, per il momento sono qua, però appena mi danno risposta se ne vado a far culo. Io l'ho presa doppia perché è così, ma mai giù fatto un culo tra pagliente, credimi. Però sono stato ben retribuito, la verità ti dico. Vabbè, ma così è, ti dà soddisfazione pure lavorare. Ma così hanno tirato le 40 euro. Che cazzo di soddisfazione va? Di quelli coglioni di razza. Lo so. No, io la verità prendo. Mi pagano bene quando sono fuori. Quando sono in capannone a Sassari è un prezzo. Quando sono fuori sì, però sono pagato bene. Beh, va bene, ripeti con Antonio che mi ha sentito un attimo. Antonio. Yeah, Antonio, guarda. Ecco, è il lavoraccio, eh. Dovete fare quello che fanno il portenato, che fanno all'Iram, sanno tutti i giorni, fanno quell'orario dalle 7 del mattino sino alle 2:30 e poi se ne vanno a casa e poi c'è l'altro turno, cioè, capito? Tutti i giorni sono lì, c'è gente che non c'ha bisogno neanche di usare la macchina, viene, entriamo lì. Comunque si faceva anche quando c'era il Covid, lì al sito, e avevano assunto i provvisori e venivano col tram, manco macchina usavano, si prendevano una borsa con i panini, cose del genere, alla una dopo che finiva pure, che c'era poca gente, andavano e mangiavano, poi si andavano a casa. Sì, ma sempre mangia panini, burono. Poi quando sono fuori sono spesato anche di mangiare, di tutto. No, non ci sono problemi. Quando sono fuori Sassari, comunque già. No, di quello già grazie a Dio già pagano già. Se lavoro molto durante il mese mi porto un bel po' di soldi a casa. Se fa poco arrivano i. Cioè, inizia da maggio, i tour iniziano, mi sembra aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Quindi a voi già ne hai, quest'anno viene un sacco di gente in Sardegna per fare dei tour. Quindi a voi ti fai un bel po' di soldini. Piacerai, però chi se ne frega, ma almeno incassi un bel po' di soldi, sei tutti i giorni lavorando, capito? Ma io l'anno scorso, non lavorando tutti i giorni, sono arrivato anche a prendere 1.400 euro, non travagliando nemmeno tutti i canteri lì, ho fatto molte serate, cioè diciamo che non lavorando neanche tutti i giorni. Va bene, meglio niente, cioè ormai io, tu sei giovane, quindi quel lavoro puoi tranquillamente fare, io ormai sono arrivato a 60 anni, non mi fido più a salire sopra i tralicci eccetera eccetera e fare lavori pesanti, capito? Dopo che ho fatto il vaccino a me mi si è indebolito il braccio, e tuttora, cioè mi ha fatto male per 6-7 mesi, adesso dolori non ne ho, meno male, però se cambia il tempo lo sento subito, capito? Ma proprio rovinato l'ultimo vaccino che ho fatto, ho fatto 3, meno male già non sono morto, però mi ha fatto proprio male, mi ha debolito il braccio e poi ho cominciato a avere problemi, per dire andavo a bermi la birra al bar così, uscivo tranquillo, saliva a piedi, dopodiché cominciava a sbandare cose del genere, capito? Mi ha creato un sacco di problemi, ha creato il terzo vaccino. Ma che schifo, ma che se ne vada da quel paese, hanno combinato danni, boh. Hanno arruinato gli enti, hanno combinato un po' di danni, E hai visto, se tu guardi c'è la fila dei... Io no, sto vedendo tutti i giorni gente di 42, 50 anni, anche ragazzi di 27, vanno appunto per dire, entrano un attimino in un bar, si festeggiano, cosa del genere, e purtroppo visto da terra. Hai capito? Ho morto di infarto, morto di ictus, il discorso è quello, oppure ci ha lasciato, capito, come un sacco di gente ci ha lasciato le penne. Prima non lavoravano così, noi così, erano anche funibri, la metà lavorava i becchini. Adesso lavorano tutti, c'erano 5-6 funerali al giorno, mentre prima che dovevano fare, per dire, morivano 10 persone, uno per ognuno. Perché non lo so, per carità, qua hanno rovinato un sacco di gente, sono una massa di maiali schifosi, sono me lo hanno fatto anche filmare, capito, se il ricco era ricatto, se non ti vaccinavi non potevi avere, se ti chiamavano a lavorare non potevi lavorare, il discorso è quello, perché non ti potevano licenziare, però non potevi lavorare, quindi a un certo punto hai capito. E quindi così, sono molti parecchi, una milione e milioni di persone, hai capito? Poi meno male già è passato questo cazzo di cosa, speriamo che non rivenga, perché ogni tanto già c'è qualche passata di Covid, ho visto di non sperare che non fanno pintare nessuno. Capito? Una volta prima andavi lì eri tranquillo, adesso non c'è posto di niente, quasi tutti fuggiti, medici, infermieri, cioè che ce la faccio io a lavorare, a crepare diventare positivo, a crepare il Covid anch'io. Quindi uno si è licenziato, o si è andato in pensione, e quindi siamo senza nulla. Adesso tutti gli studenti si stanno partendo fuori, perché qua non li pagano, ma ce la fai a lavorare per 1200 euro al mese, rischiando magari, la gente diventa tappazza poi, quando si dice lì a pronto soccorso, secondo chi trovi ti picchia pure, non so l'altro. Solo perché li fanno incazzare loro, la colpa ce l'hanno loro. E adesso fai file di, prima lo facevi fila di un'ora, massimo due, adesso fai file di 12, 24 ore, lì buttato, diventato a pronto soccorso, all'ingresso, alla triage, capito? Che cosa sono del 118, sto combinando i disastri, mi stanno combinando. Stanno combinando un sacco di casini, non conoscono le vie, no? Cioè, questi giovani che sono in trenta da va, sto combinando i disastri. Sì, adesso ho 118 poi, ancora peggio adesso. Ci sono più ambulanze, visto che c'era un periodo che parcheggiavo le ambulanze fuori, passavo i vigili urbani e gli mettevano una multa a casa. Le risate, che è assurdo. Però poveraccio ha scaricato un ricoverato, manco due minuti, c'era le pattuglie nascoste lì a mettere multe al naso con questo sindaco. Si è fatto i soldi, si è fatto il comune. Sì, perché non lo so, perché ricciava una massa di ignoranti sono. Nella merda. Adesso ormai i vigili urbani fanno il lavoro dei carabinieri e dei poliziotti. I poliziotti e i carabinieri io prima li vedevo sempre in giro, adesso non ci sono più. Sono tutti spariti, tutti o se ne vanno al circolo oppure vanno a qualche altro posto. Ormai ci sono i vigili urbani che fanno tutto. Capito? Ce lo so già, sceriffo in bare, nega. Bianco, un attimino vado, un attimino in bagno. Fai. E Antone? Dimmi. Sono rientrato. Io, sì. Adesso lavoro, l'azienda è disperata senza personale, non trovano candidati. Ora c'è anche qui c'è piattica. Di è che accettano principianti? Le aziende, principianti con diploma, hai capito? che cosa voglio adesso per poter lavorare? Diventa comunitario, capito? Così me lo vado a spacciare meglio adesso, vado a tenere il stipendio, la voglia che faccia. Si fanno dopo stipendio mensile, si fanno di mattina lavoro, la bici la vado a spacciare, tanto in galera non ce lo puoi mettere. Che se ne vadano a cagare, se ne vadano. Di certo non è. Il diplomato ti cerca ben poco. Che chi ti cerca è il lavoratore normale, che ne ha bisogno di lavorare. I diplomati sono diplomati e se lo trovano, trovano lavoro come si deve. Qualche duro già lo fa, non è che. Sì. A me c'è la diploma, ma adesso non l'attacca culo, 60 anni non l'attacca culo, diploma, capito? Che cazzo vuoi che mi prenda? A 60 anni sto prendendo un sacco di tecnici, abbandonare quel lavoro lì perché a forza di stare a fare riparazioni con questi componenti piccoli, capito, tutti con gli occhiali, tutti i problemi di vista ci hanno, capito? Proviati dalla vita, quindi sta lavorando lei, il lavoro. C'erano tanto tecnici che riparavano TV e telefonie, ce ne sono pochissimi, una volta c'era il boom, c'era. Adesso i cinesi devono farlo e basta. Però qualcosa deve pur fare. Qualcosa, purtroppo, è sempre più difficile, sta diventando, ma quei riparatori così, cioè sempre di meno, penso che le cose sono più complicate, più cose. L'unica cosa, se vuoi fare soldi è cercare telefoni, quelli cellulari, ma non vecchio, ti smonti. Ti vendi le batterie al litro, ti vendi, che costano un sacco di soldi, le stanno cercando, si possono rigenerare, poi staccarne tutto l'oro che c'è dentro, lo sciogli e ti fai l'incontrino, capito? E ti guadagni quei soldi là, poi c'è l'alluminio, c'è altra cosa, vedo, dove c'è lo schermo. E ti penso di così, mi smontando la telefonia, solo così per fare. È un bel casino ultimamente. Oh yeah. È un bel casino. Io lo so com'è casino. Un comodo per fatinare così adesso. Prendi il computer vecchi, li smonti, capito? Togli tutto l'oro che c'è dentro, lo sciogli e ti fai l'ingotto, poi vai a come si chiama e ti tiri i soldi. E adesso ce lo butti, come fanno in Senegal e cose del genere. Gli stanno mandando tutti lì. Anzi, addirittura, non mi ricordo dove l'ho visto stamattina, gente sta comprando motociclette elettriche, non fanno altro che cambiargli le batterie e non c'è da metterci né benzina, né olio, né niente, ma fai la persona che cambia le batterie e basta. Come le batterie di queste sono quelle da 1,5 metro, ciò che sono, mi ti pensia. Devi salvarli e ti fa la batteria della moto. Sì, lo so. Mia gasino, via. Detto, da quando eri che stavi lavorando come tecnico in Viale Italia, cosa preparavi le TV? Io mi mettevo a vendere, portavo cucine, lavatrici, frigoriferi, questa roba qua. Poi installavo antenne TV, parabole, riparazioni di telefonini, non la facevo solo riparazioni di banchi quando me le portavano, capito? che mi hanno suonato il campanello, ci sentiamo Antonello. D'accordo, ok, ciao. Tutti spariti? Sempre Torino. Sempre a Torino. E allora? Novità, non ce ne sono, non stai vedendo niente. Sì, novità ci sono, c'è oggi, c'è un tipo sta vendendo media roba. Un navelatore, che ci sono le, come si chiama, le samurai, roba del genere, dove ci sono stato calato con frequenzie, mettono poi a trattare i vari, non sa neanche lui un po' quanto vale, capito? Basta che gli mandi un messaggio e fagli un'offerta, vedi tu, ma anche nuova. C'è poi c'è un altro tipo che mi ha levato delle moto di fuori, sta vendendo tutto, lo stesso il figlio, non sa anche lui quanto vale la roba e ci sono dei buoni, visto che ha 340 e altre cose varie. Infatti un giretto di su Facebook, sul coso del sito delle levature che c'è, oppure su Marketplace, c'è proprio un sacco di roba. Lineari ho visto, ha fatto la pezza, c'è la fiera anche, c'è uno che sta facendo la fiera, sta vendendo roba dell'autoriale, pali, antenne, ma quello costano un sacco di soldi, ho visto i prezzi, meglio niente. Il prezzo è troppo alto, ho visto qualche cosa, ma è troppo alto, assolutamente. Faccio prima a prendermi l'aereo, vado alla fiera, compro qualcosa e me la porto qua. Infatti, c'è questo periodo, un sacco di gente, gli allevatori stanno morendo, i figli non sanno quanto vale, quindi stanno vendendo a poco. Tanta benemeda, vabbè, io la sto sempre guardando su Facebook, ma non è che mi piace più di tanto, niente, tanto difficile ne sto cercando. Su vai su alipapa.com, ci sono gli apparecchi, ci sono gli apparecchi belli, costano anche poco, nuovi, naturalmente devi aspettare, lo sai che arrivano dalla Cina, e poi nuovo c'è carica batterie, pannelli solari, di tutto vende, batteria litio per cose, per campo, per pannelli solari, anche per LTCP ci sono, c'è la Vittoria e poi ce ne sono tanti quelli, a Calefe che come parecchi, comunque fanno anche molto. Ma è inutile mandare prima il sud e aspettano un mese e mezzo che sta arrivando dalla Cina, ce l'abbiamo non ci voi, ma il 7 novembre ho visto, cioè, un tipo di quello che tu l'hai detto non mi aveva venuto a me, è uguale più o meno, vabbè, ma non mi chiedi a me, no, quel genere lì non mi piace, io ripeto, a me mi va una stazione fissa, e c'è molti canali, frequenzie, metodo tipo Galaxy, va bene. Scarico che è più o meno come Galaxy, capito? Una tale del genere che va bene. Sì, c'è. Qui ce n'è uno, Mercatino Italia, usato, 35 euro, un 40 canali stanno vendendo, quello vecchio naturalmente. Poi su Salvatore, si chiama questo negozio, Salvatore, Sbra di Roma si chiama, vende roba Icono, cazzo, 1787 euro, cazzo, una parecchia di quelli belli, non i buoni di Abba, cazzo, cazzo, vuole portare Fuglio, cazzo, cosa arriva? Roba di... ci sono delle tive anche, io ho fatto un giro su Facebook, non so cosa, su Marketplace, vai e ce n'è roba. Tanto, ma sei tu, ma non passavi con Bife, c'era uno che ha cercato di sembrare molto alto, ma non ce l'ha fatta, ha detto qualcosa, non ho capito, ho sentito solo le Bife, Antonio, sei tu, non lo so chi. perché. Ma Antonio c'ha il mic, sì. Ah, Antonio il mic non è la mic, ce l'ho io. Perché ho sentito un mic, però non è passato. Strano, perché Antonio è la croce, è dei due passi da me. Devono passare lui. Un pettice che ruota a me. No, quell'altra parte sono. C'è una Siria, 80 euro. Sono andati in paese, no. Ehi, l'ho portata a pascolare perché siamo siamo omicidi prima a casa, oggi è una bella giornata, allora quando abbiamo l'occasione la porto sempre in giro, dai, mamma è grande un po' adesso, c'ha le gambe messe male, quindi dai. Vabbè dai, tu che hai fatto bene, almeno può dare, dato che è bella giornata. Si va il pomeriggio, ma questo ora comincia a fare freschino, e allora quindi automaticamente bisogna starsi qui ricoperti. Quando le portate, ti ricordi che ogni invariata riportante ai tempi di Altalena? Sì, ma così. A quei tempi, a Muglia, quando rovevo le scatole, gli ho messo un anno importante. Dopo un anno, esatto, ho detto, beh, adesso è passato un anno, te metto più importante. Come ho mollato, rientra lui, comincia a parlarci, beh, adesso c'è la portata vinta. E non è più convintato. Sono andato una sera vicino a casa sua e ho tracciato il capo che lui abitava quasi piano terra, capito? E dopo, allora questa battaglia io, l'ho avuto io. Non dire la verità, bei tempi, c'erano anche bisticci, ma bei tempi era pieno di gente. C'era molta gente, anche io divertente, dai, tutta un'altra corsa. Ma lei come adesso, capito? Vabbè. E che vuoi che ti dica? La vita continua, dai. Oh, ok, comunque non è molto grande, diciamo, tua madre come età, ma così, ah, forse non mi sente. Scusate che sono in una zona ad alto tasso di macchine, se mi vedo una macchina anche in borghese mi togliono un soldo, una patente qua, devo stare molto attento. Capo, allora metti il microfono in basso così non ci vedono. Ok. Luca, è qui. Luca, sei sposato, Alicia. E io ce l'ho qua. Non credo che conosce anche tu in modo che sia fitta e tipo adesso è il momento giusto. Ma sono sempre di là, voglio. Non tanto scrivere qualcuno a tipo che io i compiti, ti chiedevo l'amicizia, tutte donne. Passami 50 euro, passami nel 100. Ce la facevo. Tu ti dirà ciò che è dato a me. Io già me ne sono accorto, infatti. Ho nomi qua, gente che c'è soldi, ma quando la piazza è quella, no? Da me se già passa il WhatsApp, no, non ho detto, soldi da nessuno ne ho, quindi avvangiati, gli ho detto. L'altro giorno addirittura ora in Grande Italia ero, sono andato a prendere Giovanna, e questa è la questa mi città, posso chiedere una cosa, ho detto che cosa? Mi si stava già cominciando a togliere il giubbotto, no? Per spogliarsi, cosa del genere, ha detto, ho già capito cosa mi chiedono, ho detto, i soldi non devo regalare nessuno, io già non avevo io, ho detto, devo andare a te. Ho detto, basta che qua, nei punti giusti a prendere i soldi. Già non avevo già detto, non devo andare, allora ho detto, vai lì, e ti fai dare i tuoi soldi, cosa vuoi dire, vai, ci hai messo giù un botto e se ne è andata. Stiamo già mezzo sfogliando, hai capito? Vado bene, vedo. Vabbè. Vedo dove è arrivato Marcolino. Marco! No, sto guidando ancora, dai. Sto salendo la salita di ottava, cappa. È vero che in quinta la tiene ancora. Miracolo. Cappa. Stavo dicendo poco fa. Non è molto grande comunque tua madre, com'è stata? Siamo lì. Sì, si può dire che stai, Sì, 81! 81, Cavazzacchi! Complimenti. Io a settembre compio 70, però non me li sento, sono sempre uguale. A me pare che l'anagrafe hanno sbagliato. Sì, hanno sbagliato l'anagrafe sicuramente. Mamma un po' invecchiata, un po' ci sono tante di che saltano come grilli, lei invece vabbè, c'ha un po' queste gambe, com'è che si chiama, artrosi bilaterale delle anche, quindi le fa male, è l'operazione che ha fatto doppio rum esattamente, lui per il lavoro pesante, no, molto affaticante, però Gianni aveva la stessa cosa alla gamba, poi gliel'hanno risolta, però mamma è magra, è pur per l'anzianità, non so se è il caso di operare, poi lei se ne dovrebbe operare due, è un casino, poi c'è la riabilitazione, poi c'è sempre diciamo un certo fattore di rischio a operarsi. Ma io sono stato operato 2 anni fa alla schiena, mi hanno aperto anche davanti, mi hanno messo la gabetta al titanio, i tiranti, le viti, l'osso, la spina dorsale, insomma, io sono ordinato, vabbè, sai, io cammino, prima non riuscivo a camminare, tre passi dovevo sedermi, dolori forti alle gambe, i denti tiravano dolori proprio atroci. Io sono andato fuori a operarmi, ti posso dire che sono troppo contento. Certo, quale Sardegna non mi sarei mai operato, non sarei mica scemo. Papa, ehi, ehi, ma era quella cosa che del canale stretto che ti comprimeva i nervi? Cappa, esatto. Qui a Sassa volevano tagliarmi un pezzo dell'osso sacco, mettere una placca dentale, no, in capo te la pone. Invece lì ho fatto tutto un altro lavoro, perché mi ha detto il dottor Tresolo, dice, no, noi usiamo questo sistema qua, ed è molto migliore, eccetera. Infatti, a mio cugino l'ho massacrato, stessa cosa mia. Via. Che noi scherzando dicevamo il canale stretto inteso come la canna mia. Cappa, però io sono rinato Marco Viegur, Marco Paragone, dai, lui adesso non grido, salto, faccio, fa tutto, lavoro, inchino, io problemi non ne ho più, grazie a Dio. Ascolta, e a Zincoli l'aveva risolto definitivamente il mal di schiena, l'operazione? Ma allora lui ha fatto la stessa cosa che ho fatto io, però lui ha aperto di fianco a me in faccia, avete la gabbietta, e dirò che non dice sempre che riformare dove l'ho operato. Io ti giuro, a me le ferite non mi fanno male, è tutto cicatrizzato, tutto a punto, 2 anni sono passati. E lui stesso un po' di più di 2 anni. Mi sembra però che le fa male. C'è un fatto che quando vado a lanciarmi la scarpa un po' ne resenta, ora che lo faccio, metti fine sulla sedia e mi lascio la scarpa e basta, capito? Il resto tutto a posto, ok. Va bene, signori, vado, sono qua un po' in mezzo al traffico, e riprendete voi, fate girare. Ok, d'accordo, va bene, buon entro. Avanti, Antonio. Sì, ok, ma non c'è problema, io invece ho le gambe, grazie, le lupi, e cui il nervo che c'è dietro alla dove c'è il piede, però non ho fatto con mattelletto, non si muove più niente, né da una parte né dall'altra, così anche mia sorella uguale, figurati, e quindi mi fa male a mettere molto pesi, vabbè, sono abituato a stare a casa, a stare a casa Simona, sennò cade, capito? E quindi, perché non abita sedentare, se mette in movimento le luci già mi passano subito. Hai fatto molto come Simona, come stato, eh? Così sta. Ma così. Da noi ieri caduta, tutti e due ginocchia, e quindi meno male non si è battuto la testa né niente. Ieri mattina, adesso le ginocchia le fanno male. E l'ho messo in volta, se li passi piano piano. Vediamo un po' se riescono a fare qualche cosa, a sistemarla, il medico di base. Cappa. Bisogna stare attenti purtroppo a camminare. Anch'io se non mi sento l'età che ho, però io cammino piano piano, tranquillo, guardo, avete i piedi. Mi è battato l'anno scorso che sono caduto via Zanit, per quelli autobloccanti che non è in forma, c'erano parecchi, pure hanno tutto aggiustato la mazzaglia di fare, però male paga dov'è. Bisogna stare attenti, purtroppo è così, Antonio. Guarda, una caggiunta e ti fai male a vero, non c'è più di 15 mezz'anni, capito? Mi sono caduto, ma vado a casa, sì, alle 4 di sera. Sono andato prima da sopra, mi sono ritirato il telefono, mi hanno lasciato dei minuti, di Galmano. Poi sono tornato indietro, mi sono trovato sminto in terra, con il naso a sanguinone e anche la bocca. Mi sono specchiato la pelle dei denti davanti, quella di sopra. Non ci è passato manco un cane, capito? Mi ha recuperato mio cognato insieme con Alessia, mi hanno salito a casa loro, poi mi hanno medicato e sono salito a casa, ma ci sono andato a porto soccorso, capito? Non sono mai quei problemi, non ce li ho più per il momento, capito? ci trova giù, stasera, ma ci avete dato nessuno. Proprio nessuno. Vabbè, non c'è più nessuno qua in questo canale, Antone. Sono io e tu, e ma con io sta rientrando in macchina, sta guidando mezzo traffico. Cioè, ci illumina stasera. È entrata poi la via. Non ho capito. Ma questo maracchino è già fisso, lo posso mettere, sì. Ma quale maracchino, dove sei tu? Seia. Sì, si può mettere la roccia in c'è la scheda, c'è. Level B4 della IMEC. È una cazzata per chiama, figlio. Ma sono andate. C'è un filo che va collegato alla... al coso. Al Magiri. Lo bianco. Poi c'è il verde celeste e quello è la portante. Poi c'è un rosso e un nero e il rosso va agganciato all'impresa dell'alimentazione e la massa dove c'è l'aggancio del microfono. Quella è la massa del microfono. Poi il marlo e il cavetto per la ricezione. C'è il modello che tanto che quando stacchi il microfono lo ricevi, capito? Ma posso mettere anche un frequentimetro esternamente qua, poi già lo so così vedo la frequenza, quello posso anche fare. Sì, c'è il frequentimetro da lanciare così, non c'è nessun problema. C'è l'attacco di piega, c'è l'ingresso uscita, ed è quando sei circostante sai che frequenza stai trasmettendo. Per avere come si chiama ci vorrebbe l'attacco del frequenzimetro che parte dall'apparecchio, ma quello non ce l'hai. E quello facevo in pratica direttamente come se faceva una volta con multimode, diceva con l'attacco del frequenzimetro, cioè. Come gli apparecchi nuovi non usa nessuno frequenzimetro, cioè sono tutti con frequenzimetro. Quindi i nuovi che stanno uscendo, quelli modello vecchio E dove si può trovare questo frequentimetro, Antone? Ah, dovresti trovare la GBC a chiedere, o se ce l'ha Fusaro, forse ce l'ha Fusaro, metà G. Che bello come frequentimetro, il colore verde c'ha il disturbo rosso. Quindi qualche cibo ce l'ha mia Sassari. Mi sembra che la Giammaria un frequentimetro da lanciare la baracchina. Ah, se pensi come lo sto cercando io? Un frequentimetro da lanciare come stai cercando tu, la metà dell'esterno. Ma se lo senza glielo provo a dire. Non penso che costa molto perché ho visto su internet che costa una cazzata. Ciao Tony. Ciao. Antonio sono, mi sono... Sono entrato a salutarti, ti ho sentito, sono tornati a casa. Grazie, ci sentiamo dopo più tardi se coincide. Va bene Antonio, non c'è problema, grazie di essere entrato a salutarti. Ciao Antonio di nuovo. Buon Corix. A dopo. Capito Antonè? Ho detto non penso che costa molto perché ho visto i prezzi, sono proprio regalati. No, già non costano molto se questi elettri così esterni. Le cose si trovano, non è quello il problema, capito? Magari lo trovi anche da qualche CP che non sta più usando, ci abbiamo buttato così. E te lo va. Capito? Già c'è il giro, magari anche portato fuori lì, non so. Mi ha chiesto, io mi ricordo che c'era la Giammaria 1, che era il Mare Mauria, la Giammaria 1, il frequenzimetro. Ma io sono in pigiama, Marco lì, cosa scendo, come faccio? Natalino, ciao Natalino. Ciao Tony. Non ho capito che si stai parlando sopra l'inizio, perché non capivo niente. Perché mi ha chiamato Marcolino. Allora è già vicino ai tuoi cipressi, dai. Sì, sotto casa, Niente da portate. No, scusate, l'ho chiamato in sopravvolazione per fare in fretta, credevo che fosse disponibile in pigiama, io l'avrei preferito nudo, ma se in pigiama no, non vuoi. Sì, non c'è in tasca, gira gira. Comunque là mi senti bene, Marcolino? Benissimo, tutto il percorso dall'uscita di Polo Torres non ti ho perso un attimo. Vedo così, allora questo almeno da 60 euro sta andando sempre bene, dai. Va bene, riprendete, dai che sono a rischio patente qua. Vai. devi salire, raga. No, ma sono con mamma, Natalini, non la posso lasciare sola. Ah, ecco, non lo sapevo. Va bene. Oh, un attimo che io mi assento 2 minuti, voglio vedere se trovo una persona sull'altro canale, e poi rientro subito. Ciao Tony, ciao. Io ero in ascolto che stavo cenando. Sono a Tony, ho suonato 23, ho chiamato, ma non c'è. Oh signori, tu dici? Cioè, questi baracchini modernici, tutti carini, tante funzioni, però sono veicolati, cioè sono delle friggitrici, è terrificante in città avere in macchina in queste cose. Il 2009 non era così rumoroso, cioè i baracchini vecchi non erano così rumorosi, questi sono friggitrici, tutti quelli che ho moderni sono friggitrici. E questo basta metterti il 2009? Tocca ai 50-24. Parate in due. Ho detto che quei tipi era buono in macchina, un tocca ai 50-24. Ehi, è probabile, guarda, ma in molti modi erano più silenziosi, tutti Pluto, tutti quanti erano più silenziosi. Ma questi sono allucinanti, cioè come faccio vicino a una vetrina, un semaforo, qualsiasi cosa. E sto peggiorando, amico, queste luci a LED e dell'illuminazione stradale, è allucinante. Vabbè. Il 2009, mettiti. Ehi, la prima volta ho usato quello, e quello è bello, la ragione ma ci sta, poi ti farò vedere. Sì, infatti. Oh, ragazzi, parola, mi sei impigliato il filo. Allora, sotto casa, sono esattamente sotto casa. Vi saluto tutti, non so se mi copiate, che ci sia rimasto. Avanti che ci è rimasto. Sì, ciao Marco Lida, salutami anche a Clara. Ci sentiamo alle prossime, allora, se stai scendendo. E io saluto a tutti. Ciao, da parte di Clara Liu. Ciao Clara, ciao. Non mi sento bene, la vecchiaia carogna. Mi sento male. Ehi dai Natali, passerà. Anche quello passerà. Devi avere un po' di pazienza, dai. Va bene, di nuovo a tutti. Antonello, Tonino, Antonio, ce l'ascolto. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marcoli, ciao. Ah, mi senti anche a mezzo ai palazzi. Ciao. Se 9:10, 4:05, perfetta. Ah, cioè, vabbè, scusano, ti spiego, sto utilizzando l'antenna da 1,60 m, 1,60 m che non è piccola piccola, e poi ho 15 watt, ho messo l'apparato a 15 watt perché ti fa guadagnare un Santiago rispetto ai 3-4 watt, capito? E comunque arrivi perfettamente bene qua, chiaro. Va bene, sono contento, dai. Signori, di nuovo, querete esecutivo, buona serata a tutti, ci sentiremo, ciao. Ciao, ciao, sempre bene, salutami da qui che allora. Di nuovo, un grande bacione a tutti. Buonasera signora. Antone, ci sei? Natali, oh, non c'è più nessuno. Eventuale, salutoni, salutoni. QRT da parte mia, ciao ciao. E ciao Tony, ciao. Ci sentiamo alle prossime, ero in cucina a portare via la roba da qui. Non mi intendo bene, no Tony. Ci sentiamo alle prossime. E ti hai ricordato Natali? No, io devo andare a buttare la spazzatura, capito? Se no poi non mi viene più cara e mi rimango in casa. Che ci ho fatto mera piena fuori e quindi la butto via. Ok dai, buon carico, non lo fai Natali, saluto nel cuore, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao Tonino. Ontario, Tomipe, 4500.